Cugico Inchieste. Sotto pressione. La pandemia. Gli ospedali bolognesi. Gli altri malati. Un'inchiesta a cura di Francesca Chiamenti. Il 1 settembre 2020 i casi di coronavirus nazionali erano 978 a fronte di 81.000 tamponi, 8 invece i decessi, 107 i malati ricoverati in terapia intensiva e 1.380 ricoverati con sintomi. In Emilia-Romagna i casi di contagio erano 99. A distanza di due mesi, in data 5 novembre, i numeri sono decisamente cambiati. Circa 35.000 nuovi contagi giornalieri e 445 decessi. Anche i tamponi sono in rapida ascesa, circa 220.000, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva salgono a circa 2.400. A livello regionale, poi, i contagi in Emilia-Romagna sono 2.180. Una rapida progressione che sembra aver infatti destabilizzato le previsioni sulla nuova curva del virus. Chiara Gibertoni, direttrice del Policlinico Sant'Orsola di Bologna, ha infatti dichiarato: pensavamo che la seconda ondata coincidesse di più col tipico andamento delle influenze stagionali, ci aspettavamo il picco tra gennaio e febbraio. Invece è decisamente anticipata. Il virus si è riattivato con una frequenza e una ferocia molto vicina al primo picco. Questo anticipo ha colpito le strutture in fase di ripresa delle attività normali e sotto pressione per recuperare terreno. Bologna e l'Emilia-Romagna stanno cercando però di correre velocemente ai ripari con sforzi mirati alla riorganizzazione del sistema sanitario, sistema già pesantemente colpito dalla prima ondata. La regione ha infatti varato un piano di recupero straordinario con investimenti dedicati agli ospedali bolognesi, incentrato soprattutto sulla riorganizzazione degli spazi e sulla collaborazione con la sanità privata. Stefano Franceschelli, del sindacato CISL FP, ci ha spiegato in cosa consiste questo piano. Le informazioni che abbiamo rispetto al recupero straordinario sono quelle che sono state comunicate dalla CTSS quest'estate, quindi la conferma di questo piano di investimenti che riguarderà le strutture sanitarie bolognesi, che interessano in maniera particolare il Sant'Orsola, che ha una necessità impellente di rimodernare e riadeguare alcuni padiglioni un po' più vecchi rispetto alle nuove normative di sicurezza che sono state introdotte alla luce dell'emergenza Covid. Su questo piano sappiamo che ci sarà un ricorso parziale a affitto di spazi presso le strutture della sanità privata, e peraltro quello che abbiamo colto favorevolmente è che rispetto all'impostazione iniziale, nella quale sembrava che ci fosse una cessione senza nessuna garanzia di rientro di 400 posti letto, attraverso un piano di recupero che prevede una solidarietà interna, diciamo così, fra le strutture sanitarie pubbliche bolognesi, questo fabbisogno di recupero di posti letto all'esterno riguarderà solamente, per quanto riguarda il Sant'Orsola, 88 posti letto. È un piano, da informazione che abbiamo noi, 180 milioni di euro complessivi a livello regionale. Una parte li hanno investiti per la Lab Nazionale di Terapia Intensiva presso l'Ospedale Maggiore. L'altra parte più consistente per il rifacimento dei padiglioni del Sant'Orsola, che devono essere adeguati rispetto agli standard di sicurezza attuali. Sarà un lavoro molto importante, molto imponente, perché saranno 3 padiglioni che devono essere praticamente rifatti a nuovo, perché hanno le famose camere a 6 letti, non hanno i bagni in comune, il sistema di aerazione non è confacente alle normative attuali, insomma sono i reparti più vecchi, ecco. Anche Carlo Anau, presidente dell'organizzazione di volontariato Tribunale della Salute e membro del comitato utenti, familiari e operatori del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Bologna, ha affermato come l'inadeguatezza degli spazi ospedalieri sia un grande ostacolo per la sanità bolognese. Al CUFO, che è il comitato utenti, familiari e operatori, ho presentato alcune lamentele che ho avuto da parte di alcuni utenti che dicevano che, per esempio, le ospedalizzazioni all'interno del quello che è il servizio, l'SPDC, Servizio Prevenzione Cura Diagnosi, dell'ospedale Malpighi, c'erano dei problemi. È un servizio dove ci sono camere a 4 letti, 3 camere a 4 letti, una camera a 2 e soltanto una camera a 1 letto, quindi non è assolutamente idoneo, neppure quando le cose vanno, tra virgolette, senza virus. Ecco, adesso che c'è anche il virus, le cose si sono ovviamente complicate, tanto che la direzione sanitaria ha dovuto ridurre i posti letto nelle camere a 4, ridurli a 2. Ecco, allora, così abbiamo concordato insieme al direttore del Dipartimento Salute Mentale di costituire un gruppo di lavoro nel quale andiamo a fare non soltanto proteste, ma anche proposte che la direzione sembra ben disposta ad accettare. Perché che cosa è successo con gli ospedali? Gli ospedali sono rimasti, per quello che riguardava le altre patologie, sono rimasti molto alleggeriti dalla paura che le persone hanno di entrare in ospedale. Se le ambulanze non avessero dovuto aspettare tanto tempo per entrare dentro al pronto soccorso. Il 30 ottobre, in conferenza stampa, la direttrice Gibertoni aveva ammesso che i tempi della riorganizzazione degli spazi sono stati anticipati per far fronte alla nuova ondata. A scendere in campo in merito al recupero degli spazi è anche la sanità privata. Franceschelli, segretario della CISL FP, ha infatti spiegato. Da quello che sappiamo, in corso i bandi per l'aggiudicazione da parte delle strutture della sanità privata degli affitti. Si tratta sostanzialmente di un affitto di spazi. Quello che stiamo discutendo con le aziende, abbiamo fatto alcuni primi incontri informativi, ma altri sono in programma nei prossimi giorni, è capire se e come all'affitto di spazi sarà conseguente anche una cessione temporanea di personale che dalle strutture pubbliche dovrà andare a prestare servizio presso i nuovi spazi affittati all'interno delle strutture private. Who cares what it does since you broke my heart? Who loves the sun? Who cares that it makes plants grow? Who cares what it does since you broke my heart? Who loves the sun? Who cares that it is shining? Who cares what it does since you broke my heart? Who loves the sun? Al l'altro snodo cruciale di questa operazione di riorganizzazione della sanità bolognese è appunto quello accennato da Franceschelli, la questione del personale. Già provati dalla prima ondata, medici e infermieri stanno vivendo ancora oggi una situazione di forte pressione e incertezza. Abbiamo cercato di fare chiarezza con l'assessore comunale alla sanità, Giuliano Barigazzi. All'ASL, io ho dato dell'ASL, ma anche il policlinico ha fatto la stessa politica, dal 31 all'ASL ci sono 650 infermieri in più, quindi se continuate ad assumere, è chiaro che teoricamente non bastano mai, diciamo così, cioè si levano ovviamente sempre le preoccupazioni, perché naturalmente più c'è pressione, soprattutto per esempio nei reparti di terapia intensiva e subintensiva, dove il rapporto tra personale e diciamo persone ricoverate è alto ovviamente, però devo dire insomma l'azienda appunto ha avuto 650 infermieri dal 31 di gennaio e c'è soprattutto in vista questo concorso che abbiamo in maniera previdente anticipato di un mese e mezzo la scadenza, che dovrebbe finire il 18, credo che siano migliaia di persone che sono presentate, che è un concorso proprio per personale infermieristico e che si conclude il 18 di novembre, e da lì potremmo attingere ulteriormente delle altre figure, così come stanno assumendo gli specializzandi medici fin dal quarto anno, quello era una norma prevista dal decreto Calabria, se ricorda, e possono essere appunto assunti. Diciamo che lo sforzo è continuamente ormai di ricercarli, di poter assumere, ma quel concorso insomma ci dovrebbe dare una grossa mano per poter tenere un livello adeguato all'interno dei nostri ospedali di personale, tenendo conto naturalmente del fatto che l'Italia ha purtroppo un problema un po' strutturale che viene da lontano, sia sul tema dei medici sia sul tema degli infermieri. Basta vedere insomma quali sono i rapporti di infermieri per abitante rispetto anche ad altre stati europei soprattutto. Stefano Franceschelli. Allora, assunzioni sono assolutamente state fatte a partire da marzo, quindi da quando è cominciata l'emergenza più importante legata al Covid, sono state assunte più di 1200 persone all'interno delle strutture sanitarie bolognesi. Quello che noi stiamo riscontrando a oggi è che sicuramente ci sono ancora delle situazioni di sofferenza, soprattutto nei reparti che sono più dedicati alla gestione dell'emergenza Covid, perché comunque ovviamente il paziente Covid è un paziente che necessita di un carico assistenziale ovviamente molto più elevato di quello che necessiterebbe un paziente in degenza normale, diciamo. Di conseguenza molti reparti, diversi reparti sono stati riadattati a questa nuova tipologia di paziente, però vediamo che in alcune situazioni ancora il personale è veramente molto sotto stress, con situazioni di turni lunghi, doppi rientri, quindi situazioni di pressione veramente veramente forte. Le assunzioni sostanzialmente noi diciamo sono state fatte, però occorre sicuramente accelerare nuovi ingressi, perché in questo momento qui il personale sta vivendo una situazione di stress veramente molto elevato. Rispetto alla prima fase, la politica che stanno portando avanti le aziende sanitarie è quella di cercare di tenere duro, rispetto a quello che era avvenuto nell'emergenza di marzo-aprile, su quelli che sono i ricoveri programmati e ovviamente tutta l'attività sanitaria ordinaria, per fare in modo che non ci sia la necessità, che non esploda un'ulteriore necessità quando la curva dei contagi diminuirà, di attuare un piano straordinario di recupero. Quindi cercare comunque di mantenere l'attività ordinaria assieme alla gestione delle casistiche Covid. Ovviamente sono stati fatti degli investimenti, se pensiamo anche solo alla lab di terapia intensiva nazionale che è stato attivato al Maggiore, ma anche lo stesso Sant'Orso ha fatto investimenti in alcuni reparti dedicati all'emergenza Covid, però il fenomeno di spostamento di personale da reparti ordinari a reparti Covid lo riscontriamo di meno, perché appunto c'è l'intenzione di non cedere rispetto anche a quella che è l'attività ordinaria. Ora, da un certo punto di vista è sicuramente positivo, perché quello che abbiamo riscontrato è che questa primavera ha portato anche tante persone, tanti cittadini che hanno rinunciato a curarsi e quindi hanno aggravato anche situazioni di patologie che già avevano, perché gli ospedali erano in blocco. Noi auspichiamo che questa politica possa andare avanti, però per farlo sicuramente serve un'accelerazione sulle assunzioni, su questo non c'è dubbio. Tenuto conto che ad esempio l'azienda UTI di Bologna ha comunicato che sospende le ferie del personale sanitario. Ecco, noi su questo abbiamo chiesto l'attivazione di un confronto immediato con la direzione perché è un messaggio in questo momento qui che difficilmente il personale recepisce positivamente, al netto del fatto che a novembre non è un mese in cui ci sono particolari programmazioni di ferie, però il blocco sine die delle ferie sicuramente non è un segnale positivo, perché comunque nei reparti, soprattutto nei reparti Covid, si fanno i doppi turni, si fanno le lunghe, quindi la situazione è veramente molto sotto stress e sotto pressione. La gestione della nuova ondata del virus e il normale corso delle prestazioni sanitarie ordinarie non sempre però riescono a trovare un equilibrio. A farsi sentire ci sono infatti la difficoltà di smaltimento delle prestazioni in arretrato dal primo lockdown e la possibilità di rinvio di ricoveri non d'urgenza. Ma a differenza della prima ondata, l'obiettivo ora sembra essere quello di evitare pesanti blocchi della sanità. Ce ne ha parlato l'assessore Baricazzi. La situazione è diversa dall'altra volta perché stiamo affrontando l'emergenza Covid tenendo aperto praticamente tutto, dalla specialistica ambulatoriale alla chirurgia programmata, ovviamente all'urgenza, questo l'abbiamo fatto anche durante naturalmente i mesi della cosiddetta prima ondata oramai, e quindi la differenza e lo sforzo che si sta facendo, che si era programmato poi in realtà anche per tempo quest'estate, è proprio cercare di affrontare questa nuova situazione, che è una situazione sicuramente difficile per l'aumento dei ricoveri giornalieri, ma che fino adesso ha visto insomma sostanzialmente un'ottima tenuta tenuta del sistema, anche se naturalmente dovremmo capire se le misure che sono state prese una settimana fa cominciano ad avere effetto nei prossimi giorni, questo lo vedremo probabilmente alla fine della settimana. E poi c'è ovviamente urgenza anche di mettere in essere anche le prossime, vedremo quali saranno quelle per la nostra regione, perché naturalmente il flusso di ricoveri giornalieri, tenendo aperto tutte le altre attività, l'attività ordinaria, è un po' la scommessa che stiamo facendo. Nonostante gli sforzi, però, le lunghe attese e i rinvii della medicina non d'urgenza continuano comunque a pesare sui cittadini, come ci spiega il presidente del Tribunale della Salute, Carlo Anau. Noi siamo relativamente fortunati rispetto ad altre regioni, però faccio un esempio che conosco di persona. Una operazione di cataratta è stata eseguita non più tardi di un mese fa a Reggio Emilia. Da noi queste cose sono ritardate proprio perché c'è un arretrato molto forte al quale non si riesce a rispondere. Per tutte queste cose, quindi non soltanto per il Dipartimento Salute Mentale, ma anche per le altre, credo proprio che come comitato consultivo misto lo prenderemo in considerazione più presto nella prossima riunione. Inoltre, in tema di blocchi, alcune realtà ospedaliere hanno subito un destino differente, come ci racconta il sindacalista Franceschelli. Posso dire per certo è che, ad esempio, l'azienda Ulti di Bologna, per quanto riguarda gli ospedali di Budrio e Bentivoglio, a partire da fine ottobre sono state chiuse le attività chirurgiche elettive appunto presso il presidio di Budrio e di Bentivoglio, ad eccezione della chirurgia emergenza ostetrica. Questo è l'unico dato certo. Yeah.